La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. È il 1998. Linor Arbajil ha 18 anni ed è bellissima. La pelle ambrata, gli occhi scuri, curiosi, intelligenti, un sorriso dolce. Si trova per lavoro a Milano, è di passaggio, fa la modella, quando un uomo, anche egli israeliano, la sequestra e la violenta. Solo poche ore prima la vita di Linor era bellissima. Da poco era stata eletta Miss Israele e pochi giorni dopo il passaggio a Milano avrebbe dovuto partecipare al concorso di Miss Universo. Linor andrà lo stesso e vincerà il titolo. I never wanted to be in pageants, but the price was a trip to Thailand and a new car. I won the car before I had the license, so for me it was like heaven. Miss World 1998, Miss Israel! Mamma, chissà se valeva la pena fare tanta strada e arrivare qua. La gente è la solita e non cambia scena, la stessa che ho lasciato tanto tempo fa. La ragazza più bella del mondo capisce al volo che quella che ha in mano è una gigantesca opportunità, quella di dar voce a tutte le donne che, come lei, avevano subito violenza e però non avevano avuto il coraggio di parlarne e di denunciare i loro carnefici. Il primo momento è stato andare davanti a tutti, davanti a TV, radio, giornali e raccontare la sua storia. Il resto è venuto da solo, o quasi. Linor, in oltre 17 anni, ha raccolto centinaia di voci, abbracciato centinaia di donne, sostenuto progetti, combattuto per la sua e la nostra dignità. Brave Miss World è il film che racconta la sua storia. I always say that that all this Miss World, they say I want to save the world. I took it seriously. Ho preso seriamente la questione e così mi sono messa in gioco. Ero Miss World, Miss Mondo, e avevo da raccontare la mia storia. Ero stata violentata da uno sconosciuto per strada e mentre raccontavo questa storia mi accorgevo che attorno a me c'era un'infinità di donne che aveva la stessa storia da raccontare. Ho capito che questo era quello che avrei fatto per il resto della mia vita. Andare in giro, letteralmente, andare in giro per il mondo e ascoltare le voci di quelle donne che ancora non avevano avuto il coraggio di raccontare. Raccontare è l'inizio della guarigione. Se riuscirò a fare questo per il resto della mia vita, io sarò felice. C'è una cosa che voglio ribadire a tutte le donne e gli uomini che ci stanno ascoltando. Sappiate che nessuno può farvi cose che non volete. Se questo accade, dovete denunciare. Perché dico questo? Perché molti stupri avvengono all'interno della famiglia. Io sono stata sequestrata e violentata da uno sconosciuto. Beh, la mia storia è quasi unica nel panorama delle storie che sento. Perché la maggior parte delle violenze avviene in famiglia. Le violenze vengono fatte da persone che noi conosciamo. Il nonno, il cugino, lo zio, l'amico di famiglia. E queste violenze si perpetuano 2, 3, 4, 5, 6 volte. Vanno avanti per anni. È questo che si deve fermare. Le donne devono parlare, denunciare. Nessuno può farvi del male o fare qualcosa contro la vostra volontà. E chi vi ha violentato non deve mai più parlarvi, non dovete mai più vederlo. E se vostra madre o vostro padre non vi credono, non importa, voi dovete andare avanti. E nessuno vi deve porre domande del tipo: perché? Perché sei andata lì? Perché non mi hai ascoltata? Lo hai provocato? Nessuno deve farvi sentire responsabili per la violenza che avete subito. Nessuno. Questa è la mia battaglia. Questa è la mia storia. Questo questa è dunque la storia di Lenore, e questo, negli anni Ottanta, era invece il nostro paese, in una serie di interviste raccolte dalla RAI. In Italia, infatti, fino al 1979, lo stupro era ancora considerato un reato contro la morale, cioè chi commetteva uno stupro o una violenza sessuale veniva imputato per aver commesso un reato contro la moralità pubblica e il buon costume, e non per aver commesso un reato contro la persona. Ma lo sa lei per chi parliamo? Lo sa? Perché quello è mio figlio, se no sa quanto me ne fregava a me. Lo sa lei? E non ha fatto niente di male, non l'ha ammazzato a sta ragazza. Si è andato a divertire, certo che gli piaceva pure a lei andare a divertire. Se no non ci andava con mio figlio, che mio figlio non ci aveva moglie o un figlio. E lei lo sapeva, che telefonava sul lavoro a rompere le scatole. Vabbè. Se lui aveva una moglie e un figlio, perché ci andava? E perché tutti lo fanno? Che è il primo che lo fa? Suo marito se c'ha o non lo fa? O mica non glielo va a dire a lei? Tutti i mariti, io le fa, tutti i mariti. Tutti i mariti, perché sono le donne oggi, fanno schifo. Siamo noi donne stesse, fanno schifo. Sì. Il marito non lo fa? Siamo le donne stesse, fanno schifo. A puttane, signora, che cosa mi dice? Cos'è? Perché mi vogliono a puttane? Ma non lo so. Io c'ho il marito. Perché ne dice? Perché se il marito mi dice la donna, la rifiuta, vorrete lei. No, tutte le prostitute che ci stanno. Non la rifiuta il marito. Guarda, sono stata con una. Ma il marito gli dico, qua io sto qua, quella, ma no, vabbè, sì, certo che lo vedo e mi fa piacere, no? Ma certo, se gli capo mi dice una cosa, vattene, e di qua è giusto, no? Perché... tutti gli uomini sono così, sono tutti gli uomini così, perché se gli capo la donna, che oggi sono le donne che si buttano addosso gli uomini, perché ne vedo tanti, io ne vedo, ne vedo tanti io, e fatemi vedere, ma questa era più di un anno che andava in giro così, era più di un anno che faceva finta che andava a lavorare, invece andava a lavorare, non so più, è uno schifo. Is there a time for keeping a distance? The time to turn your eyes away? Is there a time for keeping your head down? Forgetting all worth your day? Non ho detto niente a mia mamma perché avevo paura che rimanesse delusa, che mi guardasse con occhi diversi, racconta una delle tante ragazze che Lenore ha incontrato. Voci di donne, tantissime, che trovano il coraggio di aprirsi e che vi facciamo sentire in questo estratto dal film Brave Miss World, che racconta la storia di una di noi, Lenore, e racconta la storia di una vera moltitudine. Tante donne violentate cercano di togliersi la vita, alcune cambiano completamente il senso della loro esistenza. Lenore è stata forte, non fortunata, ma forte, e ha avuto una madre al suo fianco che non l'ha mai abbandonata. Vi facciamo sentire dunque un estratto del film nelle sale da ieri. I'm afraid that she'll look at me and be disappointed. My name is Julie. Rape just makes you feel degraded and disgusting. Someone taking everything away from me. Dead. I felt like I was a walking corpse. Every time I hear someone's story, it takes me back to my own. So, if it's make you happy. Someone here who gave me the courage to speak out when I was raped. It was my mother. She never let me feel ashamed. She didn't care what the neighbors would say. She knew that the fault was his, not mine. I wish all victims of rape would have the same kind of support that you gave me. שבאו אנס אותי פעמיים, שכללה סכין הצמוד לצווארי. עד היום קשה לי להקל שעברתי את כל זה ואני עדיין בחיים. אני מתפללת שהבן אדם הזה, אורי שלמה, יושב בכלא לשארית חייו, אך לצערי זה לא יקרה. I'm going back to Italy for the first time since the rain. I've been afraid to come here for a long time. But I think I'm ready to face it. You wanna cry, you cross your heart and hope to die. Una storia, quella di Lenore, che diventa il simbolo per tante donne e grazie alla visibilità mondiale del concorso, Lenore diventa anche portavoce internazionale nella lotta contro la violenza sulle donne. Un lavoro continuo, dunque, che è diventato un documentario prodotto da Cecilia Peck, figlia dell'attore Gregory Peck. Questa è la prima volta di Lenore, perché è da quella violenza terribile che inizia questa storia. Ora ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco. La prima volta. You go right. You wave. You smile. You go left. Till the end. You wave. You smile. You go to the middle. You wave. You smile. Vai a destra, saluta, sorridi. Vai a sinistra, saluta, sorridi. Vai al centro, saluta, sorridi. Racconta così Lenore Arbagil, quella che era la preparazione per partecipare ai concorsi di bellezza. Camminare, salutare, sorridere. Era ottobre del 1998. Lenore si trovava a Milano per lavoro. Venne sequestrata e violentata per 3 ore da uno sconosciuto, che si rivelò poi essere un uomo israeliano. Le 3 ore più brutte della sua vita, ci dirà Lenore. Com'è brutto raccontare e rivivere quanto accaduto. Ma Lenore ha scelto di farlo per dare forza alla moltitudine di donne che ancora oggi subiscono in silenzio. La storia di Lenore fece molto scalpore. Era il 26 novembre del 98. La ragazza era al concorso alle Seychelles, ma non sorrideva molto. Questa cosa era stata notata. Non sorrise molto neppure quando vinse il titolo di Miss Universo. Quando le misero la corona in testa e la fascia sul fianco, un giornalista dal pubblico le chiese se era vero che aveva subito una violenza a Milano. Balbettò qualcosa Lenore, ma poi si decise a raccontare tutto e tornò in Italia per andare al processo. Per una donna, raccontò, il momento più duro è ripetere cose accadute davanti ai poliziotti, ai giudici, guardare gli altri e chiederti se ti stanno credendo. This film is about women and men, but most women that were raped and are talking about what happened to them for the first time. Most of them, almost all of them, didn't speak for years and speaking to me in the film for the first time. Brave Miss World è un film che ho sostenuto moltissimo. È un film che ha per protagonisti gli uomini e le donne che hanno subito una violenza sessuale. In questo film ho parlato per la prima volta di quanto mi è accaduto nel 98 a Milano. Ne avevo già parlato altre volte, così come sto facendo con lei ora. Ma nel film ho trovato la forza di raccontare in profondità quanto accadde quella sera. Il film non parla solo della violenza, ma anche della vergogna. Ho capito che chi subisce una violazione tanto profonda si vergogna, non riesce a parlarne. Eppure parlare è forse l'unica possibilità di vivere una vita felice. In questo momento, attraverso questo documentario e attraverso tutti gli incontri che sto tenendo in giro per il mondo, il mio obiettivo più importante è convincere le ragazze, le donne, gli uomini che hanno subito uno stupro ad aprirsi, a parlarne, a non viverla come una vergogna. Quando parliamo di queste cose, si soffre, si piange, ma non possiamo pensare di trattenere queste emozioni, di isolarci. I want people to be to know it's okay to talk. I want women to know they're not ashamed. They shouldn't be ashamed. They shouldn't blame themselves. And when they will talk about it, they will feel like they can heal. Lei è molto attiva da anni. Ha avuto da subito al suo fianco sua mamma ed è stata davvero sostenuta. Ora si può dire che sta facendo lo stesso con altre persone. Ma in generale le chiedo, che cosa possiamo fare per fermare tutto questo? Cosa ha senso fare per aiutare chi ha subito una violenza sessuale? What can we do? I believe that if we all gonna speak about it more, first of all, if women... Che cosa possiamo fare perché la violenza sulle donne finisca? Il primo passaggio è parlare. Più donne si incontrano, parlano di temi legati alla violenza, più uomini saranno sensibili a questo tema. Per anni ce ne siamo state in silenzio e ben tranquille. Oggi la nostra società è cambiata. È in totale cambiamento anche grazie al fatto che donne e ragazze oggi parlano e parlando cambiano le cose. Ogni cosa può essere cambiata. Io credo davvero in questo. Io credo davvero che ognuno di noi, scegliendo di cambiare, determina un cambiamento nella vita degli altri. Quindi mi impegno perché sempre più donne sappiano che si può uscire da una situazione di abuso, di violenza. Andare in giro per il mondo a incontrare altre vittime di stupri, quanto e come ha cambiato la sua vita? Women that were raped, but I didn't know how much. I didn't know how the situation is bad. Prima di iniziare a pensare al film, prima di iniziare a girare il film, non avevo idea davvero di quali fossero i numeri della violenza sulle donne. Quando ho cominciato a girare il film e incontrare le donne, ho capito la portata del fenomeno. Mi sono detta, bene, siamo all'inferno. In tutti questi anni ho ascoltato storie terribili. E accorgermi di questa violenza, di questa brutalità, è stato scioccante. Accorgermi di questa moltitudine è stato terribile. Ho sofferto molto, soffro molto. Ancora oggi, quando vado in giro per il mondo e parlo con le donne, resto impressionata dai numeri, da quante persone hanno dovuto subire violenza. Però il mio più grande successo, la mia più grande vittoria, è riuscire a parlare con queste ragazze, dare loro il coraggio di parlare, di uscire fuori e capire che ci sono tante possibilità per essere felici. How I'm thirsty to hear what I have to say. I didn't even think that I would be so rare society, rare in a way that no one speaks. Like I thought. I thought there are many women like me out there, but when I go and speak, I see the things that I say, these girls, for them, it really sometimes can change their life and give them courage to move on with their life and help themselves. E cosa pensa di fare ora? Quali sono i suoi progetti per il futuro? I'm gonna continue doing what I'm doing. I just come back from Canada, New York. I was in India. I progetti per il futuro. Continuerò a fare quello che sto facendo. Per tutta la vita farò questo. Sono appena tornata dal Canada. Sono stata in India a parlare di stupri. Sono stata negli Stati Uniti. Quando non viaggio, sono a casa. Ho tre bambini. Due sono gemelli e ho tante cose da fare. And this is what I wish to do. Triste sorra se le dia, che casina io. Questa è dunque la storia di Linor Arbagil, Miss Universo, violentata a 18 anni a Milano. Era di passaggio, ma quel passaggio le ha cambiato la vita per sempre. Linor, pochi giorni dopo, sarà sul palco e vincerà il titolo di Miss Universo. Ci andrà col groppo in gola e il corpo spezzato e vincerà con il solo proposito di combattere la violenza subita e quella subita dalle altre donne. I'm sure inside they're very nervous, and one lady who will know exactly how they feel is last year's Miss World. Ladies and gentlemen, will you please welcome Miss World 1998 from Israel, Linor Arbagil. Linor racconterà che da quel giorno molte cose sono cambiate. Tre bambini, una laurea in legge, Ma a cambiarla più di ogni altra cosa sono state le storie che ha raccolto in giro per il mondo, storie che si intrecciano nel film Brave Miss World, un documentario che racconta questa storia, un lavoro prodotto da Cecilia Peck e sostenuto e diffuso dalla Onlus We World Intervita. Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. La prima volta termina qui. Ci trovate sul sito di Radio 24. Lì c'è anche il nostro indirizzo Facebook e la mail per scriverci. Grazie per essere stati con noi. Buona giornata a tutti. Da Cristina Carpinelli. Ci ritroviamo sempre di domenica, sempre alle 13:30. E in faccia ai maligni e ai superbi il mio nome scintillerà. E dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone una canzone suonerà.